La zanzara extra. Fate quel che volete, dite quel che volete, vi odio profondamente. Ho mandato un tweet per dire che siete una banda di farabutti assassini, che siete all'origine di tutte le violenze che capitano, soprattutto tra minori. Ho fatto un invito all'antiterrorismo, vediamo un po' come si può fermare. Se guardi i tweet, vi dico che quanto accade di orrore è colpa di personaggi come questo. Voi sicuramente vi nascondete dietro sconosciuti e siete farabutti, drogati, figli di puttana, assassini di cattatori. Decidete voi, voi mettete sconosciuti, la polizia postale ha già i vostri numeri. Voi continuate, io vi lascio fare, fate quel che cazzo volete, a me fate schifo, anzi, mi fate pena. Emilio, siamo noi, non ti preoccupare, siamo noi. Vabbè, eccomi. Senti, ma che sta succedendo? Che mi hai raccontato delle cose tremende? Che succede? Sono qui all'Apple a cercare di rimettere ordine ai telefoni. Su quale telefoni? Attraverso gruppi che operano sul WhatsApp, sì. Arrivano in una giornata, sono arrivati 10.000, 3.000, 5.000. Si tratta di messaggi terrificanti, cioè dell'orrore. Cioè? Voglio dire, delle cose terrificanti che sono anche... tipo, lo so, i loro vanno assassinati, tagliati a pezzi e dati ai maiali. Addirittura? Sì, addirittura. E sono soprattutto giovani. Giovani. Ma perché rompono i coglioni a te? Scusami. Ah, beh, perché il mio numero è andato a finire su Facebook. Un hackeraggio che non ha precedenti. Minacciano il Papa, minacciano di mettere delle bombe, minacciano... Ma hai denunziato tutto? Hai denunziato tutto? Allora, nelle procure di Milano poi? Roma, sì. Napoli, sì. E Torino, sì. Roma, Napoli, Torino, ci sono delle precise denunce alla polizia postale della questura di Milano, sì, antiterrorismo. Certo. Antiterrorismo, addirittura, l'antiterrorismo. Addirittura, certo. Cioè, ti sei rivolto all'antiterrorismo? Sì, signore, perché le minacce sono pesanti, spesso ci sono istigazioni, complicità con il terrorismo. Ma so, come li definisci questi qua che ti chiamano ogni tanto, che ti rompono i coglioni? Come li definisci? Io, guarda, i figli dell'orrore sono dei farabutti ricattatori, sì? Che si chiamano, si alternano giorno e notte. Io alla polizia postale di Milano, sì, ho fornito anche delle immagini che non oso neanche raccontare. Ma è roba incredibile, è roba incredibile, sì, dai. Violenza sessuale, addirittura, dai. Addirittura. Come addirittura? Ma ti assicuro, qui abbiamo guardato anche qui dove sono all'Apple, guardavamo il numero. Ma dove cazzo sei? Non ho capito, dove sei? All'Apple, sto cercando. Ah, la Apple, Apple. Ma che cazzo pronunci sto nome? Sei impazzito. Io non ho capito all'inizio, Parenzo, non capivo. Alla Apple. Alla Apple, cazzo, direttore. Hai fatto il direttore per una vita, non sai manco come si pronuncia Apple, e che cavolo. Il direttore per una vita, ma ai miei tempi, per fortuna, insomma, questo problema tecnologico non esisterà. E quant'è che la guadagnavi netto? No, in netto non me lo ricordo. Io ho la pensione di 8.000 euro al mese. Beh, sì. Buono questo. Dopo 60 anni che devo fare? Andare a raccattare la spazzatura? No, questo è buonissimo, bene, ottimo. No, ma ti bastano 8.000 al mese? No, non mi bastano. Ogni tanto gioco al Superenalotto e l'altro giorno ho vinto anche 29 euro. Scusa, perché non ti bastano 8.000? Non ho capito. Non mi bastano 8.000 perché devo pagare la rata della macchina che c'ho in leasing. Poi? Non mi basta perché devo pagare l'autista che non è in leasing e quei soldi li devo dare. Poi? Me la puoi badante, guidare tu? La badante, te la metti, non la badante giovane, la badante. E l'affitto? L'affitto? E l'affitto di casa, certo, perché io sono stato messo fuori da lì, tac, e pago. Allora, l'affitto, la badante, l'autista. E poi qualche cos'è che paghi? Tutto ormai? Certo, adesso di tutto. Una volta non pagavi un cazzo. Bene, il mio contratto, devo dire la verità, mi consentiva di vivere bene perché io avevo la casa e l'affitto non la pagavo, mi pagavano anche... Berlusconi. Ma perché non l'hai messo da parte, scusa? Non l'ho messo da parte, se io ho avuto la parcella di un avvocato, Nadia Lecci, di 400.000 euro per tre udienze. E dell'avvocato Pecorella per 400.000 euro per tre udienze. La legge è stata condannata a restituirmi i soldi, sì, ancora sì. Adesso ti aspetto. E come la consideri tu questo avvocato? La legge era la mia più grande amica. Dopo tre udienze mi fa una parcella di 400.000 euro, sequestro ingiuntivo conservativo, per cui mi ha portato via tutto quello che avevo. Vabbè, ma quanto ti rimane in banca adesso? Quanto hai in banca? Se 12.000, ho calcolato oggi, 12.600 euro. Mamma, roba da poveracci proprio. Ma ti posso dire che tutto quello che avevo, tutto il mio gruzzolo, è stato sequestrato. Lei è stata condannata... E non ti vuole ridare i soldi, e non ti vuole ridare i soldi. Ma 12.600 è roba da Caritas, praticamente. Non è roba da Caritas. Insomma, roba che la patata non la posso pagare. Oh, 8.000, e 8.000 al mese non è che sono tantissimi, poi, no? Beh, insomma, assolutamente no. Ma allora, se ci metti che devo pagare la benzina, che devo pagare il leasing della macchina, sì, beh, certo. Se ci metti che devo pagare la cameriera a ore, certo problema. Se sì. Ci metti che pensi che devo pagare le bollette dei telefonini. Quanto quindi, ti avanza? Niente. Quando sei arrivato alla fine del mese, quanto ti avanza? Niente, praticamente. Quando alla fine del mese io... no, però Giuseppe, tutte queste stronzate che si dicono sui soldi, fanno sì, e questo è un pericolo, io lancio attraverso voi un allarme. Qual è il pericolo? Con le procure. Ehi, questi mi hanno svaligiato casa. Ma chi ti ha svaligiato casa? Ma questi chi? Questi chi lo so chi sono. Vabbè. Facciamo una colletta per Emilio, perché 8.000 al mese sono pochi. Ma quale colletta? Sì, ma poi cominceranno tutti quanti, quelli, tu c'hai 8.000 e io ce l'ho 300. Allora, sai che ti dico, ma che figura di me, posso anche dire, ma andate a fanculo, dopo 60 anni... Ma ci vai tu a fanculo, dai, su. No, voi va a fanculo, oh. Ho capito, ma la gente è 8.000, ma scusa, ma tu dici 8.000, dai. Ma per 18, 8.000. 8.000, 8. 60 anni di giornalismo, ma vado a fanculo, vado a lavare i sessi. Ciao, caro. Ancora voi, non è possibile. Ma direttore, ti ho appena sentito alla Zanzara. Ma non posso. Sei il solito Lecchino. Lecchino di Renzi. Ti posso dire fino a Berlusconi. Guarda, posso dire una cambi cosa. Squadra di calcio. Siete degli io senza offendere gli handicappati, voi siete gli handicappati. Ma hai cambiato bandiera, non si cambia bandiera. Però mi mantengo sempre la puttana di tua madre. Non ti che sembra al mondo. Di leccare troppo. Ma ti sembra possibile che un essere, chiamiamo umano, come te, perda tempo a dire queste cazzate? Ma tu cambi troppo, sei Lecchino? Sei troppo Lecchino? Addio mio. Direttore? Carmine Milano. Carmine, pronto? Cosa me ne frega di Carmine? Pronto? Vai Carmine, dimmi. Ah, Carmine. Caro Parenzo. Chi è pensa Carmine? Pensa che io adesso chiamo e ti spiego una caccia che purtroppo anche tu da poco tempo puoi fare. Cioè? Ed è la caccia al coniglio in autovettura. Come caccia al coniglio in autovettura? Non è che... Una caccia perfettamente legale, non ho bisogno del porto d'armi. Uccido un coniglio con la macchina, ma c'è una tecnica dietro. No, però scusami, dove si pratica questa roba qui? Scusa, la caccia alla lepre, al coniglio, praticamente come? In motorino, lepre in macchina? Lepre o coniglio? No, bravo. Ora ci arriviamo, ma sarò abbastanza breve. Siamo in Sicilia, sì. Paesi etnei, grazie a Dio, sovrappopolazione di conigli, ce n'è dappertutto. La notte escono e vanno sull'asfalto per cercare cibo, per farsi una passeggiata, non so perché. Allora lì nella notte, vroom, due fari, abbaglianti accesi, sì. Si infila nelle strade asfaltate di campagna però strette e si incontra il coniglio. E allora? È abbastanza sostenuta, siamo sui 50-60. E allora, pom, lo devi prendere, ma lo devi prendere con la ruota, se no me lo spiaccichi tutto sull'asfalto e poi non lo puoi mangiare. Ma scusa, è una specie di caccia alla lepre, è una caccia alla lepre, una gara? Anche una gara, certo. Ma chi la fa questa roba qui? Chi la fa? Io l'ho fatta, io sono giovane, ma ancora. Ma come l'hai fatta? Col motorino o con la macchina? Con la macchina e ancora prima il motorino. Il motorino è più difficile perché si tratta. E ovviamente chi vince che ammazza più lepre. In realtà è una cosa che si va tutti insieme. Ma tutti insieme chi? Tutta l'estate. tutti insieme gli amici. Ma ancora lo che roba è? Ma lo fanno ancora è? O no? Assolutamente sì, assolutamente. Ma totalmente paese... illegale. No, totalmente illegale. No, non è illegale perché se uno totalmente attraversa... illegale. No, ma che è illegale? Io sto guidando. Oh, guida, ragazzi, passano le prime strade. Io guido, io bravo, grazie. Che cazzo vuol dire? Non è che è illegale. Totalmente illegale. Ma però, che illegale occhio. Di che? Se passa una lepre totalmente illegale. Ma che dici? Dai. Tirami fuori. No, credo, qual è il paese dove si pratica questa roba qui? La caccia alla lepre? Qual è? Sicilia. Sì, ma in Sicilia è grande la Sicilia. Qual è il paese? La località? Paese Etnei. Vabbè, ma dimmi la località, amica. Se non è un reato, dimmi la località. Ah, allora, hai capito? Bravo. Fiume Freddo di Sicilia. Fiume Freddo di Sicilia. A Fiume Freddo organizzano la caccia alla lepre col motorino e con la macchina. Non beh, si ritrovano per hai appena detto che organizzano. Altre persone, mie conoscenze le hanno fatte, organizziamo. Cioè vince chi ammazza gruppo. Più lepri si vanno totalmente di... illegale. Ma non c'entra niente illegale così. Illegale, scusami ragazzi, illegale, ma avete il buon senso di ragionare o no? Non è illegale. No, non è illegale ammazzare gli animali no, ad minchiam? No, allora, perché attraversano la strada in quel momento. Ma no? Sta dicendoti attraversando grazie la strada. Cosa? Quello dice grazie, ma grazie cosa grazie. È così. È evidente che è così. E allora ammazzate gli animali per strada a casa. Ma non è ammazzare allora, conto è se se in Toscana ti passa un cinghiale davanti e hai una macchina robusta. È uguale, allora più o meno è uguale, anche se tu ma organizzi pare, una roba tra amici in cui 10 macchine vanno a cacciare le lepri. A parte che adesso diventa normale. Ma adesso però, scusami, no, mi calmo perché non mi devo più arrabbiare. Mi ha detto il medico dimmi, che non che mi devo arrabbiare. Che diventa normale che un gruppo di amici organizzano col motorino o per strada o con la macchina una caccia alla lepre. Non è la caccia. Allora io va bene che è normale. È normale intervistare il trans. È normale. Ma lei l'hai già fatto questo scherzo. No, ma non è già fatto, è che ogni volta ne salta fuori una nuova. E quindi no, su una cosa nuova, uno non è. Non c'è sketch. Che dove andiamo adesso? Il prossimo che chiama chi è? Raffaele da Torino. Cosa inventerà di nuovo? Cosa diventerà normale per te? Ma no, ma te lo è... chiedo. Dice vai in giro con il culo di fuori. È normale. Ma come è normale? Non è normale. Sì, il diritto di andare in giro con il culo di fuori. È normale, lo fa. Comunque, Andrea, non è una cosa nuova questa qua delle lepre, ragazzi, eccetera. No, non è nuova. Vabbè, Fiume Freddo. Ed è normale. Ciao, ciao, ciao. La Zanzara. Hey! Cruciani, che cazzo d'amici che hai? Parenzo, Telese, ma dove l'hai trovati, eh? Gli amici tu li prendi da Risparmio Casa. Allora, io prenderei WhatsApp di un'ascoltatrice perché voglio provare a fare una cosa. Il WhatsApp che è arrivato, il messaggio che ci è arrivato è esattamente questo. Ma quante storie questo nigeriano! Gli hanno detto scimmia, e fra l'altro è anche vero. Non doveva prendere un palo e reagire, doveva rispondere a parole. Gli ha detto male perché ha trovato uno più forte di lui. E basta, no? Allora, chiamiamo, chissà in che situazione è, parla tu all'inizio, parla tu, capito? Ok. Pronto? Salve signora, lei è la signora razzista? Scusi, ma lei chi è? Io sono Parenzo, Radio 24, La Zanzara, buonasera. No, guardi Parenzo, sono molto contenta che lei mi abbia chiamato. Ecco, io sono invece, lei deve... Ascolti, lei, io non ho detto che è giusto lei dire ha detto che ha fatto che è una scimmia e che ha fatto bene, quindi è una reazione che doveva mettere in conto. È morto, allora adesso, la fine è morto. Quindi? No, adesso dovrebbe vergognarsi, chiedere scusa a un milione di immigrati. Guardi, io non chiedo scusa proprio a nessuno. E vergognarsi delle porcherie milione... che ha pensato e detto. Perché guardi, pensato... io mi sono anche abbastanza contenuta perché avrei voluto dire delle altre cose. Ah, e cosa voleva voglio dire in più? Dire che se io passo e mi dicono cozza, perché magari potrei essere una cozza, non sradico un palo della luce e lo do in testa a chi me lo ma ha detto. Ma che c'entra questo con la... capito? Che no, c'entra. Che c'entra questo col cosa? Fatto che è giusto dire scimmia? Che c'entra? Se lei è una cozza, è una cozza e sono problemi suoi. Appunto. E se quella è una scimmia, è una scimmia, è un problema la suo. La scimmia è un insulto razzista, lo ma capisci o no? Ma non è un insulto, perché le scimmie sono anche ma molto carine. Ma non è un insulto carine. Dire a un immigrato di colore no. Scimmia? Ma assolutamente no, anche perché deriviamo dalla scimmia. Ah, non è un insulto dire scimmia? Io non credo, cioè c'è un insulto molto credo, maggiori. Ma non credo, non guardi, credo. Guardi, lei mi sembra anche un po' froce in questo momento. Come dice, cara? Mi sembra anche un po' frocio. Ah, eccola parlando. Qua la razzistella. Quindi scimmia si può razzista. Dire, poi frocio. Ma lei mi fa tutti i versetti come un frocio. Avanti, dica frocio, anche avanti, dica ancora. Poi peggioriamo la sua situazione. Ma scusi, Parenzo, ma che va cercando? Mi faccia capire. Andiamo avanti, aggravi la sua situazione. Poi, ma io non aggravo ancora niente. Guardi, Parenzo, che non mi fa mica paura. Ah, ma anche, neanche a me fa nessuna paura. Infatti l'ho chiamata, chi se ne frega. Ma paura a chi? A una razzistella di provincia, secondo lei? Guardi, di provincia. No, perché io sono nata e vissuta a Roma e di una provincia per lei. Di provincia proprio. La provincia mi risulta, io sono nata a Roma, non credo di essere di provincia. Di provincia, lei di provincia rispetto al mondo, rispetto Roma, alla globalizzazione. Una provincia, rispetto... una provincia, allora non lo so, sono una razzistella di provincia. Quindi lei non prova alcuna vergogna, neanche in famiglia, così c'è tranquillamente. In famiglia? Ma quale vergogna? Ma di che cosa devo provare vergogna? L'hanno abbandonata tutti alla fine. No, guardi, io ho una bellissima famiglia, lei manco se l'immagina. E la sua famiglia non si vergogna di lei? Ma assolutamente, perché si deve avere una razzista in casa. Ma guardi, ma quale razzista? E lei cosa ma insegna ai suoi figli? Io non ho i figli. Che ai suoi bene, nipoti cosa insegna? Adesso nemmeno, non avendo i ma figli. Ma che sta succedendo? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con una razzista con chi stai parlando? Ma chi avete chiamato? Ma questo gli sarebbe, no, ma chi avete chiamato? Scusa che io sono arrivato adesso. Chi avete chiamato? Non ma ho capito. Ma mi ha chiamato, ho lasciato ieri un messaggio in segreteria, quindi Parenzo mi sta insultando. No, insultando. Parenzo, che stai facendo? Non ho capito. Io sradico un cane della luce e Aspetta, chi... mi prendo le offese. Scusi signora, chi è, scusi signora, lei è quella che ha detto ma in fondo scimmia è vero, quante storie per questo nigeriano, gli ha detto male perché ha incontrato uno più forte di lui, queste cose qua. Sì, sono io, ma l'avete imparato a memoria, ho fatto una dichiarazione che va colpito. E lei si nasconde un po', perché secondo me lei pensa anche peggio di quello che ha detto. Può darsi, No, e allora perché non dice esattamente quello che pensa? Così almeno... Lo sto dicendo, l'ho detto quello che pensa, ma ci avete addirittura chiamato. Cioè lei dice che la colpa addirittura è dell'immigrato, questo io è il punto. Io dico che non è la colpa dell'immigrato, l'immigrato ha avuto una reazione esagerata. Se non era nero era meglio, Ma se era nero, verde, giallo, ma se io pazzo e uno mi dice cozza, non è un buon motivo che mio marito, per cui mio marito... prenda un palo nella ruta e glielo dia in testa, cioè ma per cui gli ha detto male alla fine. Gli ha detto male perché ha beccato uno che era più le forte di lui. Ha detto male a lei, signora. A me mi ha detto male. In fin dei conti chi se ne frega, dice, no? Poi alla fine chi se ne frega o no? Di che cosa? Del fatto che questo è morto. Ma non è, guardi, ne muoiono tanti di bianchi uccisi da degli immigrati, ma mi pare è morto un poliziotto. Ne muoiono dei bianchi uccisi dagli immigrati. Ma scusi, ultimamente dice? Un poliziotto non è stato ammazzato? Perché lei fa questa distinzione bianchi neri? È così, guardi, mi confermano qua tutte le mie amiche razziste, siamo tutte razziste. Mi confermano che è stato ammazzato un italiano bianco carabiniere da un immigrato. Ma chi sono le sue amiche? Ma che le sue amiche? La questura, l'ANSA, ma chi sono queste amiche? Che è questo circolo di razzisti, il circolo bimbo dei razzisti? Ma basta essere negro in Italia, malato di AIDS, gli AIDS ha svoltato la vita. Cioè basta essere negro, malato di AIDS? E negro, malato di AIDS e possibilmente gay, hai svoltato la vita. Cioè? In che senso, scusi? Cioè, tutte le agevolazioni possibili e immaginabili. Ma perché sono favoriti i gay? No, sono favoriti. C'è questa tendenza, come dice l'avvocato Taormina, che praticamente se sei gay, possibilmente malato di AIDS, immigrato... Ma che c'entra malato di AIDS? Uno poveraccio? No, voglio dire, se c'hai una serie di sei privilegiato, cause, sei privilegiato. Ma che vita triste ha avuto, signora? Guardi, io non sento Parenzo, io non ho avuto una vita felicissima, continuo ad avere una vita felicissima, sono una donna felicissima e non sembra, ma mi passa una delle sue amiche? Mi passa una delle mie amiche, aspetti, sì. Le passo una delle mie vediamo amiche, vediamo un po', Ku Klux Klan femminile. Pronto? Sì, buonasera signora, buonasera. Eccoci qua, immigrati a rogo allora, come andiamo? No, a rogo no, se non venissero sarebbe meglio. Se non venissero sarebbe meglio. Meglio che muoiano tutti in mare, no? Come mai se non venissero sarebbe meglio? Perché, allora, il problema di sostanza dice perché vengono qua? Perché loro passano tutti da ste guerre, vengono anche da posti su cui la guerra non c'è e che non gli va di lavorare. Comunque, vogliono essere mantenuti. E francamente... È meglio prima gli italiani, no? Sempre, visto che io pago le tasse. E anche bianchi, No, che l'italiano è bianco, colorato, mezzo. È uguale. Lascia il tempo che trova. Signora, che vota lei, per curiosità? Fratelli d'Italia. Scusi, mi passa un'altra? Guardi, oggi e non le passo un'altra perché non hanno voglia di parlare con lei. No, perché? Perché no? Non gli interessa. Ma è interessante questo club. Mi faccia togliere il cappuccio bianco del Ku Klux Klan. No, se me lo manda un cappuccio bianco mi piacerebbe molto fashion. Anche le torce, anche le torce. Anche le torce. Anche le torce, va bene, anche sì, le torce. Tutto il cappuccio bene. Bianco. Senta, magari no. Con questo caldo le torce no. Mi passa un'altra sua amica, per favore. Ma non ci vuole parlare, che devo fare? La prego, ma io sono anche un bel ragazzo, signora. Magari lei non è un bel ragazzo, Cruciani. Lei si deve tagliare i capelli perché non si può guardare. E vabbè, quello me li taglierò, signora. Non ha parlato la principessa Sissili. Ha detto, ma scusi, Marenzo, lei mi conosce? No, ma già dalla voce capisco che è la principessa Sissi. Figlia, scusi, Sì, non credo con la principessa Sissi. Guardi, non lo so. Ah, lei è molto figa, signora? Ma io sono una donna di una certa età, mi ritengo una gran bella donna. Non beh, so, un'ottima. Mi... Praticamente non si può dire MILF perché MILF lei non è madre, no. Però no. Si sono può una dire bella donna. Una cougar. No, guardi, non sono né una cougar né una MILF, io me questi epiteti non mi riguardano e non mi... Semplicemente una razzistella attempata, te lo dico. Sono una razzistella attempata, ma sono una bella donna. Ma io infatti questo qua non lo metto in dubbio, per carità, se lei dice di essere una bella donna nessuno lo mette in dubbio. Ma che bella donna. Però mi passa. Ma che bella donna. Penso, ma lei ma che ne sa. Ma quali caratteristiche ha? Ma con quel livore che ha, ma che bella ma donna. Ha una rocciglia con le unghie sporche, Penso, i capelli arruffati. I capelli arruffati, le unghie sporche. Guardi, sto scusi, parlando di sua quanti sorella. Anni ha, quanti di anni sua ha? Moglie. Quanti anni ha? Tutti i capelli unghie. Io ho 59 anni. 59. Mi passi una tua amica, per favore, ti do del tuo. Mi non passi. Ci vogliono parlare. Un'altra sola. Rita, ci vuoi parlare? Rita, dammi Rita, dai, ti prego. Non ci vuoi, detto non ci penso ma no, proprio, ma non Rita, voglio perdere tempo. Come ti chiami tu? Io mi chiamo Marcella. Ok, Marcella, puoi dire a Rita che cosa ne pensi di quello che è successo a Fermo? Glielo puoi chiedere. Cosa ne pensi di quello che è successo a Fermo? Non c'ho voglia. Ha detto che non c'ho voglia, muda. Sono muta, me ne devo andare. Mamma mia, ma dove state? Dove avete riunito questo club? Di cervelli pazzeschi. Che cos'è questi cervelli dietro che parlano? Questo tra... Ma no, sono le mie amiche, stai in una boutique. Io sono la titolare di una boutique. Ah, beh, bellissimo. Sono signore che non fanno un cazzo tutto il giorno invece e stanno lì a chiacchierare a vedere i migranti. Che cazzo fa tutto il giorno, Parenzo? Sicuramente. La tua mogliettina, Parenzo, che cazzo fa tutto il giorno? State là dentro il negozio con la panza, le lasagne e commentate gli immigrati la che sbarcano. Panza. Io peso 45 kg, la panza, sono tipico da formatella. Per gamba 45. È interessante, è interessante. Una grande fantasia, Parenzo, c'è una grande fantasia. È interessante sta cosa, 59 anni, quanti chili? Quanti chili? No, peso 53 kg. Sì, 53 per gamba però. Ma direi proprio di no, caro, 53 kg. 53 kg, insomma, seno, tette. Tutto il giorno dentro il negozio a guardare fuori dalla storia, dice guarda c'è un immigrato e mangia le lasagne. Negozio, guardiamo tutto il giorno, pensiamo alle donne che fate niente dalla mattina alla sera, siete lì a covare odio tutto il giorno e a parlare con quattro bisbetti che lì razziste, dai. Invece tua moglie che cazzo fa tutto il giorno, Parenzo? Un'immagine terribile. Ma perché la moglie? Mi rispondi che cazzo fa tua moglie tutto il giorno? Io faccio fa la giornalista come me, insomma. Tua moglie fa la giornalista come sì, te? Sì. Non sta lì a ciabattare. Ma che ne pensi di quelli che arrivano con i barconi? Guarda, io penso che non dovrebbero venire, se non li andassimo a prendere, come dice il buon Feltri, solo una volta, non verrebbero più. Ho lo stesso pensiero di Feltri. E tolgono lavoro agli italiani, secondo te, No, non rubano il lavoro agli italiani, no. Questo non l'ho mai pensato, no. Che rubano, anche perché non lavorano, stanno davanti ai supermercati a chiedere l'elemosina. Ah, per carità. Non rubano il lavoro ma agli lì, italiani. Ma lì ogni tanto davanti al negozio arrivano a rompere i coglioni? No, io ho un sacco di amici che vengono, mi danno una mano, quando c'è da fare i lavori pesanti vengono, mi aiutano, anche perché io sono una donna. Beh, certo. Io vengono a dare una mano, io sono una marea di amici di com'è che stai da sola però, scusa, a 59 anni, non c'è un fidanzato? Non sono fidanzato, c'ho un compagno, come non ho un fidanzato? Ah, c'è il compagno, sì. Certo, compagno. Assolutamente sì. Lui cosa si è arruolato nella Wehrmacht, il fidanzato? No, il mio compagno è vuoi sapere che lavoro fa? No, beh, immagino. Va bene, Marcella. Dimmi. Ciao tesoro, ti saluto, ciao. Ciao, caro. Ciao. Buonasera, la zanzara? Sì, guardi, siamo quelli del TSO, ci può passare Cruciani? Grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Beh,

il lavoro più antico del mondo, qual è? La prostituzione. Sì. No? Anche lì li abbiamo fottuti, vanno di più i trans che le femmine. Scusi, professore, le posso proprio sommessamente far notare che l'amministratore delegato di questa radio è donna? È un problema nostro. Ma come si permette? Ma è una roba incredibile. Però scusa, ma ti pare? Cioè, dove hanno posti di potere le donne creano problemi, dice lei? Ma penso proprio di sì. No, prima però, sviando un po' da questo argomento, vero? C'è una cosa che ha detto il professor Lemme che mi pare fondamentale. Anzi, il carro Alberico. Adesso Alberico, io andrò subito Alberico, professor Lemme. Domani mattina vengo da lei in studio. Non ho bisogno, per fortuna non ho bisogno. Però, così, voglio fare visitare per capire se c'è qualcosa di strano. Allora, c'è una cosa fondamentale che ha detto. Cioè, anche nella prostituzione li abbiamo fottuti. Questo mi pare un ragionamento bellissimo, straordinario, anche originale. Cioè, lui dice, anche nella prostituzione alla fine hanno vinto gli uomini, siccome sono le donne che si prostituivano storicamente, lui dice i maschi hanno vinto pure là, perché adesso vanno di moda quelli col pisello, gli amici trans. Professor Lemme, viva! Salute. Viva Lemme, viva Lemme! A presto! Viva. Siete criminali! Finito un esame in questa cazzo di Inghilterra, un raggio di sole, petto nudo a mostrare l'addome, bottiglietta di Don Pero e siamo al top, zio. Fai buonasera. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, la sento, buonasera. Buonasera, mi dica. Senta, cercavo informazioni sulla coroncina di Santa Faustina. Sì. In cosa consiste? Perché è un prodotto che mi interessa molto. Allora, è una registrazione con la voce originale di Papa Francesco, di varie parabole a rosario. Può dare conforto? A cosa serve? Lei sa qualcosa in più? Guardi, nel senso, può dare conforto se ci si crede veramente, dipende da lei. Se lei è uno molto credente può ascoltare il rosario con la voce del nostro Papa nuovo. Poi io non so se le dà conforto, a me personalmente no. Io sono molto credente, ho letto questa cosa e volevo sapere se serve davvero a qualcosa oppure no, se è una cosa che può aiutare. Io non so se può aiutarla, cioè nel senso è una registrazione della voce del nostro Papa che parla del dice il rosario, se le dà conforto questo dovrebbe saperlo lei, non io. Ma solo quello, solo la voce del Papa o c'è qualcos'altro? No, ci sono la voce del Papa, il nuovo Papa, Papa Francesco, ci sono penso delle parabole e il punto tutto il rosario. Non lo so, quanto il fatto che le possa dare conforto questo lo deve sapere lei, io non glielo posso dire. Quanto costa? Lei la comprerebbe? Io no, perché non credo, è quello il problema. Comunque, allora, costa 59,90, compresa la spesa di spedizione. Non è poco, eh? Non è poco, esattamente, cioè è una registrazione della voce del Papa. Cioè, semplicemente, il rosario se lo può leggere, lo può andare ad ascoltare in chiesa, se è credente, lei la domenica se ne va in chiesa, si sente la messa come si deve, no? È quello che dico io. Non dovrei dirglielo io, però. Me lo sconsiglia. Ma sì, assolutamente. Dice che lo prendo a fare, no? Cioè, perché ho visto delle immagini con delle signore che lo tenevano al petto. Sì, sa come funziona, non so. Io non so spiegarglielo, però nel senso, se loro trovano conforto nel sentire una voce registrata del Papa, è soggettiva la cosa. Esatto, cioè dovrebbe essere gratis per quanto mi riguarda. Se una sola uno... praticamente, una sola. Come si dice, non so, non è che è una sola, è se una uno davvero gli piacciono queste cose, cioè nel senso, io se fossi credente non comprerei neanche le statuette, perché cosa serve la statuetta da tenere in casa? Sì. Cioè, il fatto di credere è una cosa, cioè io lo trovo solo business questo e basta. Sono d'accordo. Ma da chi è prodotto? Okay. Da chi è che lo mette in commercio? Le Paoline. Pure, cioè il Vaticano, sì. Direttamente. Esattamente, beh, ecco, chiaro. Proprio la vendita di Cristo, così proprio. Una cosa. Esattamente, come è sempre stato e come sarà sempre da parte del Vaticano, io una credo. Cosa veramente vergognosa. Esattamente. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a lei, salve. Pronto?